Buongiorno, benvenuti alla vostra Radio Mondo. Oggi noi vi presentiamo il programma Il Lavoro Vero. Ci sono tanti immigrati che arrivano in Italia per avere un lavoro. Quando arrivano in Italia finiscono sulla strada senza avere un lavoro, senza dimora, senza cibo, senza niente. Dall'altra parte vediamo che ci sono tanti religiosi che sono in Roma specialmente. Abbiamo oggi scelto una congregazione religiosa missionaria del Sacro Cuore per fare la nostra inchiesta. Ci sono con noi oggi alcuni dei missionari del Sacro Cuore, anche laici, testimoni e lavoratori, che ci daranno alcune informazioni che questa congregazione religiosa fa qualche lavoro per questi immigrati a Roma. Ascoltiamo dopo un brano musicale. Quello che facciamo nel nostro sperare, tu forza, pane e vino dai, nel dubbio e nei giorni di bisogno, con la tua bontà ci sei. Oggi abbiamo Raymond Dosman, un missionario del Sacro Cuore che era superiore della casa. In quel periodo hanno costruito una casa di accoglienza per gli immigrati. Oltre, lui ha vissuto in questa casa più di 20 anni. Buongiorno, signor Raymond Dosman. Buongiorno. Allora, sono venuto qua stamani per fare qualche domanda a lei, perché lei era incaricato da questa casa. Voi, missionario del Sacro Cuore, fate qualche lavoro per gli immigrati? Allora, prima di tutto, tanti anni fa, quando i padri gesuiti ci hanno contattato per chiederci di fare qualcosa per gli immigrati, abbiamo sistemato specialmente per loro una casa nel nostro giardino. Abbiamo rifatto tutto, messo dei letti, la caldaia, i bagni, e abbiamo ricevuto una 5-6 emigrati di Etiopia. E, è andato molto bene, una relazione molto, molto amichevole fra di noi, fra la comunità e fra gli emigrati. Come si chiama quel signore che era incaricato di questi emigrati? Sì, allora questo fratello, non mi ricordo bene, ha avuto una malattia e doveva tornare nel suo paese, dunque negli Stati Uniti, e poi i suoi superiori hanno chiamato di rimanere negli Stati Uniti. Allora, dunque, questo confratello è rimasto negli Stati Uniti, e allora non abbiamo potuto continuare nello stesso modo,